546. Gallina di Faraone. Questo gallinaceo originario della Numidia, quindi erroneamente chiamato gallina d'India, era presso gli antichi il simbolo dell'amor fraterno. Meleagro, re di Calidone, essendo venuto a morte, le sorelle lo piansero tanto che furono da Diana trasformate in galline di Faraone. La Numidia meleagris, che è la specie domestica, mezza selvatica ancora, forastica ed irrequieta, partecipa della pernice, sia nei costumi che nel gusto della carne saporita e delicata. Povere bestie, tanto belline, si usa farle morire scannate o, come alcuni vogliono, annegate nell'acqua, tenendovele sommerse a forza, crudeltà questa, come tante altre inventate dalla ghiottoneria dell'uomo. La carne di questo volatile ha bisogno di molta frollatura e nell'inverno può conservarsi pieno per 5 o 6 giorni almeno. Il modo migliore di cucinare le galline di Faraone è arrosto allo spiede. Ponete loro nell'interno una pallottola di burro impastata nel sale, steccate il petto con lardone e involtatele in un foglio spalmato di burro d'accio, spolverizzato di sale, che poi leverete a 2/3 di cottura per finire di cuocerle e di colorirle al fuoco, ungendole con l'olio e salandole ancora. Al modo istesso può cucinarsi un tacchinotto. 547. Anatra domestica arrosto. Salatela nell'interno e fasciatele tutto il petto con larghe sottili fette di lardone tenute aderenti con lo spago. Ungetela con l'olio e salatela a cottura quasi completa. Il germano, ossia l'anatra selvatica, essendo naturalmente magra, getta poco sugo e quindi meglio sarà di ungerla col burro.